Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Tutte le scritte Napoli canzoni appassionate, tutte le bellezze di Napoli sono state decantate da Bovio, Tagliaferri, di Giacomo Valente, in prose, verse e musiche. Ma chi fa di più niente? Chi tiene più coraggio di qualcosa dopo che questi poeti grossi assai? D'accordo sono che è stata di una cosa, che sto paese non si scorda mai. Sta Napoli regina di Sirene, che chiù a guardarmi e chiù a volermi bene. Viate anche sana sana di indebito. A porta di dopore, che già fa. Napoli si come zucchero, terra adorabile, che rarità, zucchero d'amore e femmine, io cuore in Napoli che può cantare. Napoli terra d'amore, sente sto cuore che devo dire, zucchero d'amore e femmine, chi è nato a Napoli ci può morire. Sì, è così. Già, lo dice anche il grande Totò. Chi è nato a Napoli difficilmente riesce a staccarsene. Le sue grandezze e le sue miserie sono come i pregi e i difetti di chi amiamo. Non possiamo fare altro che adorare entrambe le categorie, indistintamente. Napoli è religione e superstizione, è mare e vulcano, è gioia e durezza, è godersi la vita e imparare la meticolosa arte dell'arrangiarsi. Napoli è tutto, è il contrario di tutto. Una città che non solo è un conglomerato urbano, ma un luogo dell'anima, una madre e un amante, un'entità viva che pulsa, scalpita. Napoli è mille colori e insieme mille paure, come canta uno dei suoi figli più famosi, che di mestiere fa il musicista. Napoli è un solo mare, Napoli è dove mai. Napoli è la carta sporca e nessuno se ne è morto e ognuno aspetta giusta. Difficile non riconoscere la voce così peculiare di Pino Daniele, uno dei rappresentanti più celebri della napoletanità nel panorama musicale degli ultimi decenni. Una napoletanità che però, nel suo caso, non è solo quella tradizionale della canzone napoletana classica, ma si imbastardisce piuttosto, andando a pescare influenze provenienti da luoghi molto lontani dal Golfo di Napoli, luoghi che si trovano addirittura al di là dell'Oceano Atlantico. Ecco, oggi io cerco di unire questo, cioè la musica blues che ho assimilato nelle mie esperienze musicali con quelle che sono le radici culturali. Fanno parte della mia terra, che è la musica napoletana, la musica meridionale mediterranea. Quindi unire queste due cose. È là, in America, che è nato il blues. E questo blues Pino Daniele se lo porta dentro da quando è giovanissimo, anche se la sua realtà, fatta di vicoli stretti e tortuosi, come quelli che disegnano il centro della sua Napoli, è molto diversa dalle pianure sconfinate dove si trovavano le piantagioni di cotone su cui un tempo si spezzavano la schiena i futuri cantori del blues. Due realtà distanti che più distanti non si può, forse. Eppure, la storia di Pino è costellata di accostamenti inusuali e di contaminazioni impensabili, inaspettate. E l'incredibile forza della sua musica, a pensarci bene, forse risiede proprio qui. Può darsi che non tutti sappiano che cos'è un munaciello. Ed è una cosa piuttosto normale, visto che si tratta di un nome visceralmente napoletano. Un munaciello, per i vecchi abitanti della città, era uno spiritello un po' dispettoso ma benigno che si nascondeva nei muri spessi delle case antiche, manifestandosi di quando in quando attraverso piccoli scherzi. Era lui il responsabile della temporanea sparizione di pentole e utensili da cucina, di scarpe, calzini, piccoli oggetti di ogni sorta. E proprio nella casa che sta al numero 20 di via Francesco Savero Gargiulo, la stessa minuscola via che un tempo si chiamava Vico Foglie a Santa Chiara, abita un munaciello che, secondo la signora Daniele, porterà fortuna al suo primogenito, Giuseppe, Il Munachiel, se si affeziona agli abitanti della casa in cui risiede, li aiuta a campare e a volte addirittura gli suggerisce in sogno i numeri buoni per il lotto. Forse a Giuseppe, detto Pino, questi numeri il Munachiel non li darà, ma in compenso gli regalerà altre doti e gli donerà soprattutto quel pizzico di fortuna che nel magma generale della gioventù e di quella partenopea in particolare serve per spiccare il volo. Pino nasce il 19 marzo del 1955, all'incirca tra le 2 e le 3 del pomeriggio. È nato allora Emagnà, nel commento generale degli abitanti del rione, e non hanno tutti torti. Pino già da ragazzino sarà una buona, anzi un'ottima forchetta. Del resto a Napoli è difficile non farsi venire appetito anche solo passeggiando per strada, camminando sui basoli di pietra vulcanica che lastricano gran parte delle vie. Dalla bottega del droghiere esce il profumo del boattone, la conserva di pomodoro venduta sfusa, o da qualche altro angolo spunta l'odore della pizza a libretto, aglio, olio, origano e pomodoro che si mangia ripiegata in quattro come fosse un foglio di carta. Per non parlare dei profumi che si sprigionano dall'interno delle case che si affacciano su quelle vie strette strette, rimbalzando tra le facciate dei palazzi e inebriando inevitabilmente chiunque passi di lì. Gli ziti con la mollica di pane, i maccheroni al forno, la pasta e ceci, la minestra maritata, il casatiello pasquale. Sarà che Pino è nato a Loremagnà, ma la buona cucina è da sempre una delle sue grandi passioni. Neanche un'altra però, quella per la musica. Con gli amici del palazzo e del vicolo, Pino ascolta molta musica, un sacco di Elvis Presley, di rock e di blues, e respira l'atmosfera di quegli anni di fermento. Sì, anche perché è un momento musicale molto fertile, è stato un momento... Anche poi la nascita hanno inventato un sound, loro hanno inventato un sound, parlo del periodo anglo-americano degli anni 70, no? Hanno inventato un sound, cioè un sound pazzesco, insomma, che poi oggi riscopriamo nelle cose. Pino ha solo 15 anni e gli anni 70 sono appena cominciati. È proprio con gli amici d'infanzia che prende parte ai primi gruppetti musicali. Suonare è la sua passione. Con Gino e altri suoi compagni dell'Istituto Diaz, dove studia per diplomarsi ragioniere, Pino forma il gruppo dei New Jet. Suonano un po' in giro per i locali e una volta addirittura partecipano a un festival nello stadio di Lucrino, vicino a Pozzuoli. L'emozione è fortissima. E meno male che nessuno in quell'occasione si accorge che le parole in inglese, quelle parole che Pino pronuncia cantando per accompagnare la musica, sono inventate di sana pianta. La prima chitarra elettrica di Pino è una X27 con un amplificatore da 10 watt. È proprio a partire da questo strumento che Pino inizia il suo viaggio nel magico, misterioso regno della musica. Un viaggio in un luogo dove nessuno lo ha invitato, un'attrazione irresistibile che è nata dal nulla in maniera del tutto spontanea. Pino non ha genitori musicisti né particolarmente appassionati di canzoni affini. Questa nuova ossessione è tutta farina del suo sacco. Può darsi forse che la sua sia una forma di reazione alla realtà che vede attorno a sé nella sua città. Una realtà che spesso non è facile da affrontare. Oggi è una città che ha una realtà tutta particolare, una città che è piena di stress, di un ritmo che ti porta alla pazzia quasi, no? E allora ben venga la musica come reazione, la musica come cura contro le ansie, la musica come strumento di distruzione degli stress o delle costrizioni imposte da qualcuno. Dopotutto, che cos'era in origine e che cos'è ancora oggi il blues, se non un estremo grido di libertà? Il blues è in fin dei conti la ribellione a questi continui soprusi da parte della gente che, ecco, odia i negri, odia la gente di colore. E possiamo dire che c'è una relazione tra i negri e noi, no, praticamente. C'è ancora, purtroppo, questa rivalità, questo diciamo razzismo nei confronti dei meridionali, no? C'è, perché lo vivo, l'ho vissuto e sono convinto che c'è. Mentre per le strade d'Italia ed Europa soffia il vento delle proteste dei giovani e degli operai, dentro certi locali di Napoli come il Play Studio si perfeziona l'esperienza musicale di Pino Daniele e della sua band, che ora si chiama Batra Comio Machia, proprio come la battaglia delle rane e dei topi di cui un tempo parlò Giacomo Leopardi. Ma non c'è tempo per lo studio, se non per quello della musica. Pino, ottenuto il diploma di ragioniere nel 1973, si iscrive alla facoltà di lingue straniere, ma abbandona subito l'impresa. La musica gli pulsa nelle vene e gli ronza incessantemente nelle orecchie, come se fosse una sirena. Non può fare a meno di ascoltarne il richiamo. 3 mesi di università sono già tanti per uno che non vuole studiare ma vuole suonare. Ma per suonare come si deve, forse bisogna anche studiare un po'. Chitarra classica e solfeggio, innanzitutto. Prima ci prova da autodidatta, poi si iscrive a una scuola dove impara i segreti del pentagramma, della croma, della biscroma, della semicroma. Tornando a piedi dalle lezioni, Pino scandisce i suoi passi, trasformandoli con l'immaginazione in note musicali. E il suo tragitto quotidiano verso casa si trasforma metaforicamente in un pezzo del suo cammino verso un futuro fatto per intero di musica. E cammino, cammino, vicino porto, errorena, pensa morto. La chitarra si comporta diversamente quando sei solo con lei rispetto a quando la suoni davanti al maestro di musica. Avere a che fare con la chitarra è come avere a che fare con una persona viva. Quando c'è di mezzo il maestro, lei è docile, affabile, mansueta, pronta a nascondere la sua personalità per sottostare alle ferree regole dell'insegnante. Ma quando invece siete solo tu e lei, senza nessun altro, la faccenda si fa più complessa. Non appena lei si accorge che tu stai tentando di domarla da solo, si impunta e fa tutto di testa propria. Scalpita come un leone in gabbia, cerca di riaffermare la sua personalità, poi, con calma, dolcezza, si placa, lasciandosi guidare dalla mano sapiente di chi la suona. E Pino, in questo, si rivela decisamente bravo. È così bravo che il suo talento non può restare nascosto per molto. La Napoli di quegli anni vive un fermento musicale incredibile, animata com'è dal nascente movimento rock blues napoletano, che fonde in maniera del tutto armonica gli elementi della tradizione partenopea con la ventata esotica dei generi provenienti da oltreoceano. Lo sai che poi nel periodo degli anni d'oro della musica degli anni 70-80 si suonava nei locali, si andava in giro a fare... c'era la possibilità, c'erano più opportunità per la musica e poi c'erano tutti questi festival, cioè la musica era vista anche come una forma di una dimensione per esprimere socialmente quello che stava succedendo. Animatore instancabile di questa scena è il jazzista James Senese, leader di un gruppo chiamato Napoli Centrale, un nome d'effetto che evoca subito l'immagine della stazione ferroviaria del capoluogo campano, un luogo che brulica di gente, di incontri, di possibilità, di contaminazione, un luogo che rispecchia in tutto e per tutto una certa concezione della musica. James Senese è il primo magnifico destino per Pino Daniele. La storia personale di James Senese è un tutt'uno con le sue inclinazioni musicali tese alla contaminazione dei generi. Senese è un vero figlio della guerra, padre soldato americano e madre napoletana. Padre soldato americano, di colore per giunta. La contaminazione quindi è parte di James sin dai suoi cromosomi e in maniera ben più vistosa dal colore della sua pelle. Per Senese fondere musica napoletana e americana non sarà soltanto una scelta. Sarà una sorta di esigenza primaria, di necessità innata. Sarà l'unica maniera di rispondere a una inestinguibile domanda interiore. Un indirizzo che per lui è naturale, ma che per molti invece ha una portata rivoluzionaria. Rivoluzionaria perché diciamo che siamo stati il primo gruppo napoletano a rivoluzionare il linguaggio napoletano. E cioè, appunto, un nero che cantava in napoletano, la lingua napoletana, il linguaggio napoletano, e addirittura le strutture non erano più quelle lì melodiche passate, ma erano quelle lì d'avanguardia, quelle lì nuove. Senese si fa promotore della contaminazione tra musica napoletana e americana. E Pino, che non vede l'ora di unire la passione per il rock e il blues alla sua innata napoletaneità, non può chiedere di meglio. James è un compositore geniale che all'estro puramente musicale unisce la voglia di affrontare tematiche importanti, di farsi portavoce della volontà di riscatto della sua città, E non solo. All'età di 18 anni mi sono trovato a fare un gruppo con il cantante che non c'è più adesso da molti anni, con Mario Musella, e facevamo questo gruppo degli showman che nel giro di 7-8 mesi prese un successo enorme. E poi da lì la strada è continuata, no? Facendo Napoli Centrale, collaborando con vari Pino Daniele e tutti il resto, insomma la strada è continuata ad andare alla grande per un fatto proprio mio, personale, fisico, no? Diciamo così, perché per me la musica è tutto. No? Pino Daniele inizia a collaborare con i Napoli Centrale, suonando per loro il basso, nel 1976. Ed è proprio come se fosse un battesimo, oltretutto con la benedizione di più officianti. Pino, infatti, non è apprezzato soltanto da un musicista di talento come James Senese, ma anche dagli altri componenti della band, tutti straordinari strumentisti. Se nel 1975 aveva già pubblicato il suo primo 45 giri dal titolo Che calore, l'incontro con Senese e la sua band lo sprona a mettere insieme abbastanza pezzi da costruire un disco. Il primo è il 1977 e l'album si intitola Terra mia. E mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto. E invece ci aiuta, ci buffano i capelli. Natazzule, le caffè. Senese rimane piacevolmente impressionato dal primo lavoro in studio di Pino, tanto da offrirgli la sua collaborazione per i seguenti 3 album, nei quali sarà felice di supportarlo suonando il sax. E non è solo questa la grande opportunità che gli offre. Il destino ha voluto che il magnifico incontro con James Senese, nato live sui palcoscenici insieme ai Napoli Centrale, si traducesse in un'altra grandiosa esperienza dal vivo. All'inizio degli anni Ottanta, il Neapolitan Power, l'inarrestabile energia napoletana, si sprigiona all'insegna dell'innovazione artistica e della contaminazione in una gremitissima piazza del Plebiscito a Napoli. Pino Daniele è circondato da un supergruppo di grandi nomi della musica, napoletana e non solo. Buonasera a tutti, anche a nome di Tullio D'Episcopo, Tony Esposito, Rino Zurzolo. Alla tastiera c'è Gio Amoruso, usa sassofono James Senese. Sono anche il lirico. E io sono la chitarra e canto in napoletano, quindi se qualche cosa non la capito non fa niente, l'importante è il sentimento. E così, sui palcoscenici gremiti di artisti eterogenei, pieni zeppi di incroci e contaminazioni, decolla la carriera solista di Pino Daniele. Un solista che saprà sempre fare della potenza dell'incontro con l'altro il suo punto di forza, sia che si tratti di altri musicisti, sia che si tratti di altri generi musicali. I magnifici destini. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Mi sono pazzo. E oggi voglio parlare. Pino Daniele non era affatto pazzo quando pensava da ragazzo di potersi costruire un futuro fatto interamente di musica. Per cominciare è andato un po' in giro con i suoi amici a bordo di un furgone Ford giallo, bazzicando e suonando in giro per i festival dell'Unità. E poi, finalmente, è salito sui palcoscenici affollati da altri grandi artisti, uno su tutti il jazzista James Senese. Ha imparato da lui l'arte della contaminazione e ha affinato sempre più la sua voglia di mescolare elementi eterogenei, il blues e il jazz, la tradizione d'oltreoceano e naturalmente la dorata e imprescindibile componente napoletana. Allora, Pino Daniele, ciao. Che rappresenta la nouvelle vague, la nuova ondata della canzone napoletana. Che cosa c'è di Napoli e di partenopeo nelle tue canzoni? Cosa c'è? Un po' di tutto, diciamo. Di tutto. È rimasta qualcosa? Sì, qualcosa sì. C'è questo dialetto parlato oggi a Napoli, cioè non è più il dialetto di una volta, è un po' cambiato. C'è questo colore, diciamo, blues, jazzistico che... Secondo te i puristi della canzone napoletana, quelli che preferiscono la canzone napoletana di una volta, di Murolo, Tagliaferri e compagnia, che cosa ci trovano in te? Che cosa ti addebitano, che cosa ti rimproverano? Forse tante cose, o forse piacciono delle cose che faccio, non lo so. Pippo Baudo ospita un giovanissimo Pino Daniele a Domenica Inn. Pino rappresenta allo stesso tempo la rottura con una tradizione, quella della musica napoletana, e la sua ideale continuazione. Forse Pino all'inizio degli anni Ottanta è l'unico artista che sia in grado di esportare la musica partenopea al di fuori dei confini del capoluogo campano, arrivando addirittura a condividerla sullo stesso palcoscenico sul quale si esibisce un grande artista giamaicano, il più grande in assoluto, Bob Marley. Ed è proprio Pino Daniele, accompagnato da alcuni abilissimi musicisti cubani, ad aprire lo storico concerto milanese del Re del Reggae il 27 giugno 1980 allo stadio San Siro. Io non ricordo niente del concerto, mi ricordo solo che ho parlato con lui, sì, un'ora e mezza, ed è stata un'esperienza, al punto di vista umano, cioè un'esperienza straordinaria, perché parlare un'ora e mezza con Bob Marley non è una cosa... E poi mi ha detto un sacco di cose interessanti, abbiamo parlato di altre cose proprio, non solo di musica, ma... Conversare amabilmente con Bob Marley non è certo una cosa da tutti i giorni. Eppure Pino Daniele incomincia pian piano ad abituarsi all'idea di avere a che fare con grandi, grandissimi musicisti. Gato Barbieri, famoso sassofonista jazz di origini argentine, sente la musica di Pino e così, su due piedi, gli chiede di fare una tournée insieme. Se Gatto Barbieri gli insegna lo spirito della continua e incessante ricerca musicale, unito all'idea del suono come valore assoluto e imprescindibile, c'è un altro musicista che influenza Pino prepotentemente in quegli anni di fulmineo bruciante successo. Ed è un bluesman che ha avuto la fortuna in passato di partecipare a uno dei momenti più grandiosi dell'intera storia della musica. Uno di quei momenti che resteranno per sempre scolpiti nella memoria collettiva. No, it was 2 hours and 45 minutes. Ho suonato per 2 ore e 45 minuti. Davvero me lo ricordo bene. Ho cantato praticamente ogni canzone che sapevo. Le ho cantate tutte. Sono stato un sacco di tempo su quel palco. Ogni volta che me ne stavo per andare mi chiedevano di tornare. Dai, non fareste ancora un paio di canzoni? Ok, non c'è problema. E mi rimettevo a suonare. E questa scena si è ripetuta per 6 volte. Capisci perché ci metti un attimo così a suonare per 2 ore e 45 minuti? È un caldo, caldissimo pomeriggio nei pressi di Bethel, nella contea di Sullivan, nello stato di New York. È il giorno di Ferragosto, un venerdì, non certo un venerdì qualunque. I ragazzi, un po' di tutte le età, hanno iniziato da ore a sedersi sull'enorme prato e sulla collinetta che stanno davanti a un gigantesco palcoscenico. L'erba è un po' bruciacchiata, ma a loro non importa. C'è chi è arrivato a bordo di una scintillante Harley Davidson e magari addirittura ci dormirà seduto su quella sella in pelle per le prossime 3 notti. C'è chi è sceso insieme a una dozzina di amici da un furgone Volkswagen verde pisello decorato con scritte e simboli della pace. C'è chi è venuto a piedi o in autostop. C'è chi ha grossi zaini, c'è chi ha solo una macchina fotografica al collo. Ci sono ragazze con i capelli lunghi e ragazzi a torso nudo, ma anche ragazzi coi capelli lunghi e ragazze a torso nudo. Alle 5 del pomeriggio del 15 agosto 1969 si aprono le danze. Il primo artista a salire sul palco del Festival di Woodstock è un bluesman che ci resterà per ben 2 ore e 45 minuti. Si chiama Richie Havens ed entrerà nella storia insieme a tutti gli altri fortunati che in quei 3 giorni di Peace and Music calcheranno quelle stesse assi. Richie Havens è il primo musicista ad avere calcato le assi del palcoscenico di Woodstock nella mitica estate del 69. Un punto di riferimento per Pino Daniele. Figurarsi il suo stupore e la sua emozione quando nel 1983 Havens propone a Pino di aiutarlo a produrre un disco intero. Il risultato è Common Ground, che significa proprio terreno comune. Un disco come un luogo di scambio, di influenze reciproche. Un'occasione preziosa per imparare l'uno dall'altro. One moment sincerity, smoothly sincere, might bring back my sanity, named Cavalier. If you wanna know, it's the cool time to go, and about me, and I don't know. Se mi dai national bank, I can't hear. Quello che vede incrociarsi i magnifici destini di Pino Daniele e di Richie Evans è il terreno della musica, che a dire il vero non è il solo sul quale Pino ha voglia di cimentarsi. Qualche anno prima, più o meno agli inizi della sua carriera, Pino è diventato molto amico di uno straordinario attore napoletano, un ragazzo magro magro dall'aria buffa. Si sono conosciuti in un varietà televisivo della Rai, una trasmissione chiamata Non Stop, che era un po' una fucina di talenti, alcuni decisamente promettenti. Vorrei approfittare del fatto che questo sketch è trasmesso in Eurovisione per mandare un saluto a tutti i lavoratori all'estero. Un saluto in particolar modo ai napoletani all'estero, essendo la Smurf napoletana, ai napoletani, e vorrei rassicurarli sulle condizioni di Napoli. Chi stanno all'estero non sanno a Napoli come si sa, circolano tanti voci, Napoli, invece no, stiamo benissimo. Vorrei dire a tutti i napoletani all'estero che stiamo bene. A Napoli tutto, industria, commercio, tutto florido, mai come questa volta, stiamo andando veramente bene. Finito l'Eurovisione. Siamo tra di noi. Noi a Napoli siamo guaiati. No. Massimo Troisi è stato uno dei mattatori della trasmissione Non Stop ed è proprio lì, su quel palcoscenico, che ha conosciuto Pino Daniele. La simpatia travolgente di Massimo, unita alla sua fiera napoletanità, ha immediatamente conquistato Pino. Gianni, sì, io sono qua perché, prima di tutto, Pino Daniele è... Lui c'ha su carattere un po' brusco, scorbutico, no? Infatti è uno che se però io in questa occasione ho avuto l'opportunità di vedere quanto mi vuole bene. Sì. Perché mi ha invitato, no? Insomma, lui è uno così, a vederlo, lui non mi fa mai un pensierino, mai un fiunza, ricordo un anniversario. Però stavolta qua, Gaetti Gianni, invita Massimo, a felicità mia, essere voluto bene da Pino Daniele. Quando Massimo nei primi anni Ottanta smette di bazzicare i teatri e gli studi televisivi per tentare la fortuna al cinema, cimentandosi come attore e regista, la prima persona a cui pensa è il suo amico Pino. A un film serve una colonna sonora, no? E chi meglio di Pino, che di mestiere fa il musicista, può scriverla? Detto, fatto. Voi avete lavorato insieme in tre film, ricomincio da tre. Ho fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele. Ce li hai fatti apposta? Aspetta, no. Dice la verità, dai, Pino, dice la verità, dai. Noi lavoriamo così. Noi abbiamo tu hai fatto i film, ho fatto la musica, verità, Pino. Per essere qua stasera non è vero. Al combinato. Non è vero, tu fai, sì. Lui fa il canzone, mi chiama e dice, ma se ho fatto questa cosa, ma fai il film. Allora io sento, nelle parti più a tutti più malinconiche ci faccio parti più drammatiche, quando la musica ci sveglia ci faccio battute, ecco. E sono anni che andiamo avanti così. Tu mi scrivi una canzone e io faccio un film. Massimo e Pino, ospiti nei primi anni 90 di una trasmissione condotta da Gianni Minà, scherzano sul fatto che i loro ruoli siano invertiti. Prima Pino scrive le canzoni e poi Massimo, usando quelle come punto di partenza, realizzerebbe i suoi film. Al di là delle battute, la coppiata Troisi-Daniele sul grande schermo produce ottimi risultati. Ricomincio da tre è lo straordinario debutto cinematografico di Troisi che gli vale immediatamente l'apprezzamento incondizionato della critica e del pubblico. Due David di Donatello e un record di permanenza nelle sale di quasi 2 anni. Forti di tanto successo, i due magnifici amici non smettono certo di collaborare. Le vie del Signore sono finite, e pensavo fosse amore, invece era un calesse. Sono gli altri frutti del loro felice sodalizio. Per l'ultima fatica di Troisi, pensavo fosse amore, invece era un calesse, Daniele scrive la struggente Quando, pietra miliare di una carriera costellata di successi. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa chi importa. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. I magnifici destini. O scalafo. O scalafo. Ogni scalafo è bella mamma sola. Ho scoperto che Pasquale Gino Daniele ha iniziato la sua carriera a 20 anni, verso la metà degli anni 70. Arrivato alle soglie del nuovo millennio, ha già macinato una ventina di album, collaborato con innumerevoli artisti di varia provenienza, dai bluesmen ai jazzisti, dai percussionisti africani ai sassofonisti sudamericani. Ha realizzato colonne sonore di film, scritto brani per altri cantanti, suonato in giro per l'Italia, l'Europa, in Canada, Cuba, negli Stati Uniti. Ha esportato la napoletanità un po' ovunque, fondendola con la sua passione per la musica di ascendenza americana e rimanendo sempre e comunque fedele a se stesso. Io cerco di dire in parte la verità, in parte. Sì, non sono nemmeno uno capace lì, sta seduto a scrivere bei testi, belli. Cioè, io dico quello che mi viene in testa. Sono un po' pazzo da questo punto di vista. Intervistato alla vigilia di un nuovo tour in giro per i locali, in un'atmosfera stavolta più raccolta, un tour durante il quale ha avuto modo di salire anche sul prestigioso palcoscenico del Blue Note, Pino ha avuto modo di parlare anche di nuove collaborazioni, di nuove contaminazioni, di nuovi generi musicali cui attingere per arricchire il proprio bagaglio. Ci azzecca perché è un artista a parte straordinaria, mi piace molto il suo modo di scrivere, e poi è uno vero, io ho bisogno di cose vere per andare avanti, rapporti veri, e lui è un artista vero. Ma io l'ho sempre seguito anche con gli articoli 31, cioè ho seguito il suo modo di scrivere, eccetera. Tarro e t'atterro con lo sguardo, sono trash come la Marini e Adriano Pappalardo, io sono quello che impennava con il ciao, con la maglietta degli Squallor Arrapao. La collaborazione con J-Ax, ex membro del duo rap degli articolo 31, vede Pino cimentarsi con un genere a lui ancora sconosciuto, il rap per l'appunto. E certo, non è nell'indole di Daniele lasciare qualcosa di intentato. Se c'è un genere che ancora non ha esplorato, delle sonorità che ancora non sono nelle sue corde, perché mai non provare a esplorarle meglio? Su del mondo, il sole è dentro me. Su del mondo, se la risposta a tutti perché so che ora sono pronto sulla mia pelle da ovest a est a sud del mondo. Sei come il sole dietro l'eclissi, un pianeta isolato e vivo solo se esisti, capisci lo scenario, era grigio scuro, ti giuro, prima di te ero macellaio del mio futuro. Già promesso a me stesso. Il risultato dell'ennesimo esperimento musicale di Pino Daniele è il brano Il sole dentro di me, contenuto nell'album Electric Jam. La collaborazione con J-Ax si rivela così interessante che Pino decide di prolungarla anche nel disco successivo, l'eclettico Boogie Boogie Man. Ma è un po' un gioco, Boogie Boogie Man è in realtà letteralmente è l'uomo nero, quello cattivo, arriva insomma, che nero. Arriva l'uomo nero, quello cattivo che fa dormire i bambini, no? Quindi si sono un po' ispirata a sta favola, anche noi poi nella tradizione napoletana c'è una roba del genere, no? Come insomma si usa questa favola che l'uomo cattivo porta via i bambini se non dormono, ecco. Però mi piaceva l'idea, anche perché Boogie Boogie è il genere di musica, appunto il brano è un Boogie Boogie, quindi era un gioco di parole, un po' per dire adesso facciamo del blues. In Boogie Boogie Man Pino Daniele collabora non solo con J-Ax ma con altri grandi nomi della musica italiana, tra cui Franco Battiato e l'immensa Mina. Mescola la sua attitudine napoletana con le esigenze provenienti da altre sensibilità musicali per formare un tutt'uno armonico e sempre sorprendente. Soprattutto io sono nato con diciamo contaminazione anglo-americana su testi napoletano e melodie di canzoni napoletane, quindi era un po' ripercorrere una strada che ho un po' mai veramente lasciato. Intanto Pino, a proposito di contaminazioni, nel 2008 festeggia i suoi 30 anni di carriera con un disco in cui recupera i vecchi componenti del progetto Neapolitan Power, dove musicisti del calibro di James Enese, Tullio De Piscopo e Tony Esposito si erano trovati a suonare insieme a Pino in nome dell'amicizia e della voglia di sperimentare. Un nuovo concerto monumentale in Piazza del Plebiscito celebra l'uscita del disco Ricomincio da 30, che non è solo un omaggio ai 30 anni di carriera di Pino, ma anche un ricordo vivido del primo film che Daniele fece col suo amico Troisi, Ricomincio da 3. Tutti sanno il mio grande affetto, la mia grande amicizia per Massimo, ma anche il mio grande rispetto artistico, quindi sembrava bello dedicargli un progetto come questo. Anime Cold, it's gonna be alright. Anime Cold, Anime Cold. Anime Cold, it's gonna be alright. Anime. La celebrazione dei suoi 30 anni di onorato servizio non sembra affatto suggerire a Pino l'idea della pensione. Anzi, la voglia di suonare e di condividere con altri la passione per la musica è viva più che mai. Allo stadio Cava dei Tirreni nel giugno del 2011 ce ne ha dato ulteriore dimostrazione. Buonasera a tutti! Grazie di essere venuti. Vorrei dire due parole prima di cominciare questa serata meravigliosa, che bellezza. No, che stasera è una serata particolare, quando la musica può dare insomma delle risposte, anche quando la musica può avere un indirizzo sociale, quando la musica può essere fatta per aiutare gli altri, è una bellissima cosa. E quando lo fanno anche dei musicisti straordinari come questo artista che stasera è con noi, è un uomo straordinario che io finirò mai di ringraziare. E non ci sono poi tante parole da dire. Ladies and gentlemen, Mr. Eric Clapton. Che mi passa dentro questa testa. Sul palco Pino Daniele duetta con il grande Eric Clapton, con una naturalezza d'artista consumato qual è. Certo, Pino di dubbi non ne ha. La musica è la sua ragione di vita. Punto. Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone, lui ha scelto te e non ti trae.